You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare e non avvanvera contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata all'onorevole Cécile Kyenge, da poco ex ministro del governo Letta. Buona serata. Buonasera a tutti. Grazie di essere nostra ospite. Una delle ultime volte che ci siamo sentite, lei era ancora ministro e mi aveva promesso, insomma, una ricetta che faceva riferimento in maniera molto ironica a un increscioso episodio del luglio scorso. Non so se si ricorda. Sì, esattamente, mi riferisco al lancio delle banane, che esatto, sì. Si vede che avevano tanto tempo da perdere. Parliamo della festa del PD del luglio scorso in Emilia Romagna, al quale lei era intervenuta sul palco e gli ascoltatori se lo ricorderanno, c'è stato appunto questo increscioso lancio di banane. Lo avevo proposto io, casomai a chi va in giro sprecando il cibo, di imparare qualche ricetta che potrebbe essere utile anche per riuscire, insomma, insomma, a portare avanti anche un pranzo, una cena, quindi contribuisce un po' a quella che può essere anche una carenza di cibo e quindi, insomma, cominciare a vedere un altro lato piuttosto che lo spreco. Io avevo proposto una ricetta in cucina, perché voi sapete che esistono le banane che possono essere mangiate come frutta, quindi quella, le ricette si vedono, sono un po' come qui la macedonia sulla torta e altro. Quella che volevo cercare invece è un altro, sono altri tipi di banane che si chiamano platano e è questa ricetta che può essere molto utile. Platano lo trova un po' ovunque adesso nei supermercati e può essere cucinato, quindi tipo fatto bollire, oppure può essere preso non maturo, non giallo, ma un po' sul verde, quindi può essere fritto e viene accompagnato come se fossero le patate, cioè vengono mangiate come le patate. Certo. Altrimenti esiste proprio una farina di questo tipo di banane e si fa una specie di polenta e si mangia come la polenta. Lei ha reagito in questa maniera, come sempre, con grande senso di humor e anche leggerezza a un episodio particolarmente brutto, diciamolo. Immagino che in questi mesi però ci sia stata anche dell'amarezza, e mi riferisco ai mesi in cui ha fatto il ministro. Ma ci sono state molte provocazioni. Io ieri ero a Torino con il presidente Schulz, Martin Schulz, in cui abbiamo celebrato la giornata internazionale contro il razzismo, che io ho dedicato a Nelson Mandela, Madiba, e quindi, insomma, in questi mesi ho avuto tantissimi attacchi e devo ringraziare oltre a chi mi ha sostenuto qua, ma soprattutto Martin Schulz, perché lui si è battuto molto a livello europeo fino a far arrivare una voce grossa anche di sanzione a livello di cioè del Parlamento. E, cosa che manca in Italia, cioè, nel senso, io ho sempre detto va bene tutto, va bene il sostegno morale, insomma, e anche verbale, ma serve qualcosa di più forte, serve comunque il rispetto delle regole, casomai rapportate anche da sanzioni, accompagnate anche da strumenti che devono essere di cambiamento culturale. Quindi in questi mesi e la mia figura è stata attaccata in quanto simbolo, ma non tanto quanto persone, quante idee, che sono le scuse che venivano utilizzate. Lo scopo era quello di distruggere un simbolo, quello che c'è dietro il cambiamento culturale. Si sente quasi più tutelata dall'Europa che dall'Italia, diceva ci vorrebbero delle sanzioni, ci vorrebbero insomma in qualche maniera dei paletti. In Italia ci sono stati o si è sentita spalleggiata o si è sentita un po' sola? Beh, in alcuni momenti un po' sola, cioè nel senso qui serve una voce molto forte, molto, molto duro, e deve essere non solo di sanzione ma anche di rafforzare le iniziative casomai portata da una scelta fatta proprio come scelta di cambiamento. Io devo dire il Premier Letta ha avuto un coraggio molto forte, quella è stata lungimirante, perché facendo questa scelta, cioè mettendomi in quella posizione, ha voluto far passare un messaggio di cambiamento nel paese, e questo cambiamento deve essere rafforzato, quindi va protetto e rafforzato. In alcuni momenti credo che questo deve essere portato avanti, tant'è vero che nel mese di settembre mi sono incontrato con altri leader dei paesi della Comunità Europea, di precisione 17 ministri di paesi vari dell'Europa, con cui ho siglato una dichiarazione che si chiama Dichiarazione di Roma, che va conosciuta, va diffusa, e questa carta ha successo in tutti i paesi, meno in Italia, dove c'è proprio bisogno di essere rafforzate e di cambiamento culturale a livello anche di rispetto del ruolo che una persona deve rivestire, il peso delle parole, la consapevolezza di quella che portiamo avanti. Perché la cosa curiosa è che molti degli attacchi, delle cose che mi venivano, venivano indirizzata alla mia persona, quindi al simbolo, molte venivano proprio dalle istituzioni. A maggior ragione serve una presa di posizione forte di fronte a questa, vuol dire una non consapevolezza del ruolo che rivestiamo. Si parla di lei come una candidata alle prossime europee per il PD. Beh, questa bisogna aspettare le liste del PD che non sono ancora uscite. Ma devo lei è dire disponibile che, comunque. Ma io ho sempre detto, io sono al servizio del mio paese, cioè in qualunque momento, per qualunque scelta, io devo essere disponibile per dare un contributo al mio paese, che in questo momento ha bisogno comunque di un contributo forte da parte di tutti, ma anche per andare ad elaborare quel piano di integrazione che passi per la via italiana, che non abbiamo, cioè mettere insieme tutte le competenze, le professionalità che abbiamo qui e il lavoro che ho cominciato a livello del Ministero. Qualcuno le rimprovera di essere stata poco incisiva, a cosa risponde a questa critica? Ma molto probabilmente bisogna capire anche da che parte vengono quelle critiche. Devo dire che in Italia siamo in perenne campagna elettorale, quindi bisogna anche sempre guardare da che parte vengono e soprattutto da chi vengono pronunciati. Io sono stata al governo 10 mesi e 10 mesi in una struttura, perché io ero ministra per l'integrazione con per la prima volta, quindi che doveva avere le basi, doveva essere che non era un ministero già fatto, occupato per portare avanti. Io ho scelto piuttosto di strutturare, di cominciare con una metodologia, un'organizzazione, e non ho scelto il populismo, ho scelto il lavoro, la metodologia, il modo di portare avanti un lavoro per riuscire ad essere incisivo. Quindi in 10 mesi noi siamo riusciti a dare a un ministero che non esisteva, che è un ministero senza portafoglio preciso, una connotazione molto forte di battaglia, quindi lotta contro il razzismo, xenofobia e ogni forma di discriminazione. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Buonasera. serata ancora una volta da Valentina Furlanetto. Siamo questa sera con l'onorevole Cécile Kyenge ai fornelli per cucinare con lei, perché molto spiritosamente ci aveva promesso una ricetta a base di banane, di platano, insomma, per rispondere con senso of humor all'increscioso atto di lancio delle banane di qualche mese fa, lo ricorderete tutti. Tutto è cambiato in questi mesi, Cécile Kyenge non è più ministro e stiamo cercando di trarre con lei un bilancio, insomma, di questo periodo. Onorevole, dicevamo, qualche critica le è piovuta addosso, qualcuno ha anche parlato di molte spese per quanto riguarda la sua persona, che faceva, come lei diceva, faceva capo a un ministero senza portafoglio, quindi lei si appoggiava alla presidenza del Consiglio, no, per le spese. Esatto, è proprio il punto, sono felice, insomma, che ha potuto tirare fuori questo argomento, perché bisogna partire dal fatto che il mio era un ministero senza portafoglio, quindi fa capo alla presidenza del Consiglio, senza un dipartimento, quindi senza un bilancio, per cui i fondi che non andavano nelle mie tasche, come erroneamente sono stati pubblicati dicendo che la ministra ha chiesto il rimborso, mentre erano spese di missione a livello di ministero, mettendo anche una voce in giro di false cene, insomma, erano spese di ministero in cui alcune voci, che dove io andavo in rappresentanza del governo, che venivano attribuite appunto sul mio sul budget del mio ministero, faceva capire come se la sottoscritta avesse speso tutti quei soldi, ma in molte di quelle missioni andavo in rappresentanza del governo, come la missione che ho fatto l'11 di settembre a New York per andare a incontrare il segretario generale Ban Ki-moon, dove è stato poi anche qui fatto passare una notizia dicendo: sono andata a incontrare la cena con gli italiani all'estero. Anzi, io sono ben felice che in ogni città dove sono andata all'estero la mia attenzione era stata, oltre alla visita ufficiale, di incontrare i nostri connazionali all'estero, che hanno bisogno di un'attenzione particolare. E quindi è quello che è un peccato per quanto riguarda il nostro paese, è proprio il fatto di essere in campagna elettorale perenne, fa falsificare e non fa uscire la valorizzazione appunto di alcuni programmi, di alcuni progetti che vengono portati avanti, e questo è un peccato. Un altro momento in cui c'è stato un attrito anche col suo compagno di partito, l'onorevole Ciauchi, che si è espresso in maniera un po' critica nei suoi confronti, è stata in occasione dei funerali, diciamo così, delle vittime di Lampedusa, funerali che in realtà non ci sono stati, c'è stata una cerimonia, e l'onorevole ha detto in quell'occasione: forse il ministro Kyenge doveva essere più incisiva anche sulla questione CIE, no? Secondo lei si poteva fare di più? Cosa poteva fare diversamente, o qualcuno l'ha fermata? Ma credo che a volte è molto facile parlare dal di fuori, perché bisogna essere nel ruolo, cioè un conto è fare un ministro, un conto e poi essere all'interno e occupare un'altra posizione. E credo che, come voi sapete, il governo è fatto di diverse anime, che non sono semplicemente di un unico colore, ma di diversi colori, quindi bisogna Quindi riuscire... è stata fermata dalla parte centrodestra? Beh, io non posso dire di essere stata fermata, credo che a un certo punto ci sono comunque poi accordi, comunque anche percorsi che devono essere fatti all'interno, pur sapendo che dentro il mio ministero non aveva la delega alcune deleghe sui centri di identificazione ed espulsione, che fanno capo al Ministero dell'Interno. Però ad esempio l'onorevole è entrato nel CIE di Lampedusa fisicamente, insomma la situazione si è sbloccata anche per questo atto molto forte. Lei era mai venuta in mente una cosa di fare una cosa del genere, o non era nel ruolo, non lo so? Ma io devo specificare una cosa: il centro di identificazione ed espulsione, i centri, fanno capo al Ministero dell'Interno, in cui il ruolo di un ministro è anche quello di riuscire a mediare, riuscire anche a cercare delle soluzioni nel ruolo che occupa, e credo che ognuno di noi nel ruolo che occupa deve riuscire comunque a dare delle risposte efficaci, distinguendo anche a quelle che possono essere percorsi anche che sono quelli prettamente o della società civile oppure delle istituzioni locali. Adesso che è fuori dal ruolo però sì, di ministro, no? Che può parlare un po' più liberamente, bisognerebbe chiudere i CIE. Non mi sono mai nascosta dietro a questa dichiarazione. Per quanto mi riguarda, i centri di identificazione ed espulsione mi sono sempre espressa molto negativamente, ma volevo ritornare prima a chiudere la questione, perché magari la cosa che non è passata prima è che quando l'onorevole Ciauchi è arrivata a Lampedusa era già in corso lo svuotamento, cioè avevamo lavorato anche dietro per riuscire a far passare alcuni decreti, compresa anche quella di dare una soluzione immediata. Questa non è passato fuori, cioè nel senso bisogna riconoscere comunque ad ogni istituzione e qui devo tirare fuori anche il ruolo che ha avuto il vice ministro Bubbico in tutto questo, che ha dichiarato comunque anche dopo che lo svuotamento, anche l'organizzazione era già in corso. Quindi lei dice che non si è sbloccata la situazione per l'intervento dell'onorevole, ma perché era già in corso. È stato un gesto forte, ma il governo in quel momento aveva già comunque un suo percorso. Credo che potete risalire indietro a vedere le dichiarazioni del vice ministro Bubbico che si era espresso in quelle ore successive. Un'altra situazione nel quale lei si è trovata un po' al centro di alcune critiche è quella delle adozioni in Congo, che sono state bloccate, lo sappiamo, tuttora a 2 mesi dal partenza dal Congo di queste famiglie che hanno lasciato lì, lo ricordiamo, i bambini che sono già stati adottati, quindi sono da 2 mesi in attesa questi bambini, non si è ancora sbloccata la situazione. Lei era andata a Kinshasa, è tra l'altro una persona originaria del Congo, quindi forse le speranze erano molto alte anche per questa coincidenza. Cosa non è andato per il verso giusto? Ma credo un po' la situazione è stata anche quella del bisogna rispettare un attimino anche quelli che sono anche l'organizzazione di un paese, perché noi siamo andati giù, abbiamo fatto un accordo con la Repubblica Democratica del Congo su questo tema, che era quello di riuscire a lasciare a liberare comunque con lascia passare le famiglie con i bambini che avevano completato tutta l'adozione e poi il paese ha fatto ulteriori accertamenti, quindi sicuramente questa le ha messe in posizione di poter dire di poter proseguire con ulteriori accertamenti, tant'è vero che noi le abbiamo chiamate anche qua in Italia per verificare il post adozione, era proprio nella settimana in cui cadeva il governo, quindi il seguito sicuramente non da chiedere alla sottoscritta, ma era tutto in un percorso. Ma credo che noi abbiamo fatto pressione che non dipendeva semplicemente dall'Italia, ma dipendeva da tanti altri paesi. E la cosa ci è stata spiegata molto bene, specificato. Non era una questione tra l'Italia e la Repubblica Democratica del Congo, come è stato fatto capire attraverso il giornale, ma tra le adozioni internazionali, bambini che venivano adottati in Congo e tutti gli altri paesi, perché volevano fare una riforma all'interno della legge congolese. Sì, però le adozioni che erano già state concluso l'iter erano teoricamente sbloccate per queste 24 famiglie, poi si sarebbe bloccato per le successive adozioni perché c'erano state delle opacità con adozioni internazionali di altri paesi, no? Che non riguarda il Congo, cioè per dire che sono completati, dovevano avere il lascia passare, l'ultimo passaggio. Quindi non erano completati questi iter di adozione? Erano completati, mancava il lascia passare. Cioè il lascia passare. Quindi quando lei dice bisogna rispettare il governo di altri paesi, quindi del Congo, lei mi sta dicendo in fondo non erano completati questi iter? No, erano completati come iter burocratico, mancava il lascia passare. Cioè prima di uscire dal paese con i bambini, quel lascia passare viene dato dalla DGM, che è una direzione generale dell'emigrazione, che non è a livello ministeriale. A livello ministeriale tutte le pratiche erano completate, ma la DGM è quella che controlla l'emigrazione, quindi spostamenti, movimenti di frontiere, quindi deve dare questo documento. Quindi quando è avvenuto a settembre il blocco non avevano ancora il lascia passare. È chiaro che quando sono andati in Congo era giustamente per far dare il lascia passare ai nostri connazionali, cosa che non è avvenuta perché il blocco non è dovuto a un problema tra il Congo e l'Italia, ma ha tutta una situazione generale dove a essere bloccati non erano semplicemente. Cosa prevede lei da persona che arriva da quel paese? Cosa prevede per queste 24 famiglie in attesa? È difficile fare delle previsioni, cioè nel senso, devo partire dal fatto che non appartengo all'amministrazione di quel paese, per cui pur essendo il mio paese di origine, lasciate 30 anni fa d'altronde, quindi in cui sono stati cambiati molte amministrazioni, certo. Diventa difficile andare a giudicare un'altra amministrazione. Senta, ma di tutte queste cose di cui non vanno abbandonate, cioè questa va ripreso questo tema con chi ha la delega in questo momento per riuscire a dare una soluzione, insomma, a tutto l'episodio, ma credo che conclusi tutti i controlli, sicuramente i bambini, la cosa che dispiace di più in primo luogo sono i bambini, perché in tutto questo la parte sono i bambini e poi il mio sostegno alle famiglie che avevo chiamato personalmente anche al Ministero. Senta, c'è qualcosa che si rimprovera? Sì, 10 mesi sono pochi, cioè devo far presente che gennaio-febbraio per noi era stato già un periodo di cambiamenti, cioè nel senso avevamo concluso molti iter, i monitoraggi che avevo fatto sul territorio, dovevamo uscire con un piano strategico per l'integrazione, con le politiche giovanili, un piano giovani molto forte in cui ho ribaltato il modo anche di portare avanti il Dipartimento per le politiche giovanili, ma che diventasse proprio un luogo politico per dare delle linee guide. Quindi dispiace non aver concluso tutti questi, quello che aveva iniziato a fare, certo. Esatto. Senta, Renzi ha soppresso questo Ministero dell'Integrazione e non l'ha richiamata in qualche sottosegretariato, non so, magari con appunto delega alle adozioni invece che ai rapporti con l'estero, non lo so. Lei cosa ne pensa del fatto, ad esempio, che abbia soppresso proprio il Ministero? Questa è una scelta, credo, di ogni leader politico quando passa al governo, sceglie la sua squadra, sceglie la propria linea di azione. Era una scelta lungimirante, ma sicuramente il Premier, facendo quella scelta... L'ha mai chiamata Renzi? Avete parlato? Io non entro nei particolari, credo che magari sarebbe opportuno fare al Premier questa... Questa domanda, ma dicevo, quella era una scelta anche di lungimiranza, per cui quindi no, non l'ha chiamata praticamente. Ma non entro nei particolari, non vuole parlarne. No, esatto. Senta, prima di chiudere, la ringraziamo per essere stata con noi stasera. Lei ha pubblicato da poco questo libro, anche molto personale, sulla sua vita e la sua esperienza da ministro. Ho sognato una strada, in cui parla di tante cose, tra cui anche la sua vita, insomma, da ragazza, il suo padre, sua madre. Ecco, che ricordo ha del suo paese d'origine, dei genitori? Qual è stata l'influenza, ad esempio, di quello che è lei oggi? Del Congo, della sua vita da ragazzina? Guarda, un'influenza molto forte, devo dire. Mia madre mi ha insegnato veramente a guardare il prossimo come se stessa, cioè non ha mai fatto nessuna differenza, quindi questo approccio anche di solidarietà, di accoglienza, direi che ho preso moltissimo, per esempio, da mia madre, anche dalla cultura in cui, insomma, ho passato i primi anni della mia vita. Da mio padre questo forte senso anche del diritto allo studio, perché essendo stata anche un istitutore, cioè un insegnante, a casa c'era proprio questa impostazione di non, non, cioè non non mollare mai lo studio, per cui io sono cresciuta in cui la cosa principale, prioritaria, era lo studio. Qualunque cosa succede era lo studio. È proprio per quello che insomma io sono cresciuta con quella, insomma questi punti mi hanno rafforzato anche nella mia vita, che è stata anche quella che mi hanno portato fuori, il diritto allo studio. Infatti il libro l'ho dedicato proprio ai giovani, migrante e autoctoni tutti, ai giovani. E devo dire magari la cosa che un po' mi dispiace anche di non essere arrivati in fondo con la legge di cittadinanza, che è la riforma. Io spero di portarla adesso anche all'interno del Parlamento, ma soprattutto spero che il nuovo governo lo possa portare fino in fondo. E magari in Europa, no? Visto che forse quello è lo scenario più probabile per il suo futuro. Ma aspettiamo per vedere cosa si riserva il futuro. Va bene. Buona serata, Cécile Kyeng. Grazie mille, buona serata. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.